Terra in vista. L'Italia spiegata a mio figlio. Bentornati a Terra in vista da Federico Taddia e Telmo Pievani, bentrovati. Ciao, ciao Telmo. Eccoci. Un filosofo della scienza, Telmo, un giornalista che vi prendono per mano e vi accompagnano in questi viaggi estivi. Quest'anno tentiamo di raccontarvi l'Italia, il nostro paese, da tanti punti di vista diversi. Abbiamo iniziato con le montagne, oggi invece visiteremo le città. E scendiamo in basso nelle città e vediamo di ragionare di grandi luoghi immaginari come la piazza, le strade, le torri, le mura. Ma che cos'è una città? Beh, come sempre l'abbiamo chiesto alle bambine e ai bambini e queste sono le loro risposte. Yuhu! Città è un posto in cui si può andare in giro, si può andare in macchina, si fa la spesa, dove si trova la casa, dove si fa il cibo, dove si vive. È un luogo dove vivono delle persone che hanno costruito delle case per starci dentro. No, sono diverse perché hanno tipo monumenti diversi, tipo fiumi, laghi. Cambiano magari di grandezza, di perimetro, ci sono quelle più grandi, quelle più piccole e poi magari in alcune città c'è il mare, poi in altre no, in altre ci può essere la montagna. Una città magari è bella quando, non so, non è una città abitata da molti, da molte persone, non è abbandonata, mentre se magari è una città che è abitata da poche persone, non c'è nessuno, è una città desolata, magari fa un po' deprimere. Un posto dove si vive, mi sembra la definizione più sintetica e più giusta, insomma, che si potesse dare proprio per tratteggiare il concetto di città. Dove ci sono delle case, dove si vive, dove si fa comunità. Ma questa è una chiave di lettura bellissima per l'Italia, che viene sempre definita la nazione dei campanili, no? Da cui campanilismo in senso un po' anche negativo. In realtà, se tu guardi quante città ci sono in Italia, trovi le misure proprio le più diverse, come ho detto anche ai bambini. Siamo il paese delle città marinare, che hanno fatto un pezzo della nostra storia. Siamo il paese della città eterna, però siamo anche il paese di città molto mitteleuropee, come Milano e Trieste, insomma, c'è veramente, o Torino. Insomma, c'è veramente tutto delle città nel nostro paese. Ancora una volta è una chiave di lettura che ti fa capire le mille diversità culturali e il fatto che l'Italia ha di unico che la sua identità, perché noi ce l'abbiamo, perché noi siamo uno dei pochi paesi che è nato molto prima culturalmente, linguisticamente, solo dopo politicamente, quindi vuol dire che noi un'identità culturale ce l'abbiamo forte, ma è un'identità sempre basata su una collezione di diversità che stanno insieme, a volte un po' a fatica. E la nazione è un po' la somma, no? Una strana somma delle sue città, che vuol dire delle sue differenze, delle sue sfumature, dei suoi tasselli, come se fosse un puzzle. Sì, noi siamo tra l'altro una nazione strana da questo punto di vista, perché quando ci siamo uniti la nostra capitale ha peregrinato tra Torino, Firenze e poi Roma e poi si è stabilizzata su Roma, quindi anche in quel caso siamo stati dinamici. Questa è un po' la nostra debolezza da sempre, ma anche, se vuoi, la nostra forza. Non siamo quelle grandi nazioni che hanno sempre avuto una capitale centrale e tutto come i raggi di un cerchio che parte da lì. Noi siamo un puzzle molto più complicato. E poi lo ha detto anche un bambino, ci sono città, paesi che vengono abbandonati. Beh, prima di andare a conoscere cosa significa città, cosa significa paese, diamo la parola a Carmen Pellegrino, una scrittrice, un'abbandonologa, cioè lei frequenta proprio i luoghi abbandonati e in ogni puntata, così come se fosse una favola, ci racconta uno di questi paesi. Carmen Pellegrino, il traffico e poi ancora qua con Terra in vista. C'era una volta un paesino che si chiamava Consonno, un paesino da cui si vedeva il lago di Lecco, il fiume Adda e montagne e montagne da tutte le parti. Era abitato da contadini, bravissimi a produrre porri, castagne e sedani. Questi contadini non erano proprietari delle case in cui vivevano, non erano proprietari nemmeno delle stalle dei loro animali, non avevano niente se non la forza delle loro braccia. Due ricche famiglie possedevano il paese, le terre, i boschi intorno e un giorno li vendettero a un ricco signore, un imprenditore di nome Mario Bagno, che si faceva chiamare Conte. Il Conte aveva in testa un progetto grandioso, costruire la città dei Balocchi, una Las Vegas della Brianza. Per prima cosa, costruì una strada di collegamento, poi demolì le case dei contadini che furono spostati nelle baracche. Il Conte costruiva la sua città delle meraviglie, casinò, balere, pagode, il Grand Hotel, un minareto, Luna Park, negozi pieni di tutto, non mancava niente, perché a Consonno doveva essere sempre festa. A Consonno il cielo sarebbe stato più azzurro. Il Conte un giorno decise di abbattere il fianco di una montagna per rendere più bello il panorama da Consonno. La terra cominciò a non poterne più. Iniziarono le frane e nel giro di pochi anni finì la città dei Balocchi, il paese più piccolo ma più bello del mondo, come era scritto sui cartelli pubblicitari. Oggi c'è silenzio fra i resti dei giochi, c'è la pace delle cose interrotte, nessuno ci vive più. Ogni tanto qualcuno va fin lassù a visitarlo, il paese dorme e può darsi che nel sogno gli alberi ricrescano, le case e i contadini ritornino. Un cordiale saluto da Armando Torno, musica maestro di questa settimana, avrà come ospite il direttore Fabio Ciofini. Fassi d'autore, un CD di Vivaldi in cui affrontiamo il repertorio vivaldiano nelle varie sfaccettature, Vivaldi trascritto da altri compositori come Bach o come Graupner, oppure il Vivaldi attribuito, tipo il concerto per flauto di Bodino, oppure anche Vivaldi che trascrive se stesso nella sonata per violoncello utilizzando materiale per violino. A risentirci dunque domani sera alle 21.15. Un cordiale saluto da Armando Torno. Terra in vista. Eccoci qua, Terra in vista. Inizia il nostro viaggio alla scoperta delle città e come sempre lo facciamo attraverso le domande dei nostri ascoltatori. Domande come questa. Da cosa si riconosce una città italiana? Bella domanda e serve una bella risposta. Per questo abbiamo il piacere di avere con noi l'architetto Stefano Boeri. Ciao Stefano. Ciao, benvenuto. Ciao, eccomi. Bella domanda, da cosa si riconosce una città italiana? Esiste una risposta? Abbiamo inventato anche quello? Ma guarda, allora io comincerei col dire che una città italiana, in realtà sarebbe forse quasi anche, si potrebbe dire, una città europea, ma diciamo una città italiana si riconosce dal fatto che nel cuore, nel centro della città c'è una piazza. Vero. Sempre una piazza. È una piazza in cui anche qui, soprattutto in Italia, c'è sempre una chiesa e c'è sempre anche un palazzo civico, che sia la sede del comune, che sia la sede di un'altra istituzione pubblica, ma insomma sono rappresentati sia il potere religioso che il potere laico. Certo. Queste due cose sono fondamentali e poi dalla piazza partono due, tre, quattro strade che in realtà non sono altro che la conferma nei secoli di tracciati che usavano i primi commercianti che utilizzavano questi tracciati per incontrarsi e scambiare le merci, perché le città nascono dallo scambio dei prodotti legati al cibo, dei prodotti legati naturalmente all'agricoltura, quindi la storia delle città italiane è questa. Uh-huh. È vero, e poi io sono di Bologna, per esempio le torri sono un'altra caratteristica. Ma certo, perché poi questo incrocio di tracciati legati al commercio, che spesso avevano anche un riferimento con l'acqua, importantissima perché l'acqua era una fonte di energia fondamentale, era anche un nucleo che cresciuto nel tempo a un certo punto diventava fondamentale poter proteggere. Quindi attorno alla piazza crescevano i primi edifici, i primi isolati, i primi quartieri e a un certo punto questo luogo, che era un luogo di ricchezza, veniva spesso visto come un luogo da conquistare o in qualche modo da depauperare. Quindi da lì nasce l'idea anche delle fortificazioni, delle mura. Stefano, e come evolvono le città? Qualcuno ha scritto che sono come degli organismi che cambiano nel tempo senza rotture, senza soluzioni di continuità, si trasformano. È così o no? No, le città evolvono in modo spesso anche totalmente, diciamo, incontrollato dal punto di vista di un'armonia evolutiva, nel senso che ci sono accelerazioni improvvise, ci sono enormi buchi che si aprono dentro nel tessuto. Pensate alle grandi città, alle grandi metropoli contemporanee, ci sono zone anche centrali che si diventano delle voragini perché si perdono le funzioni, si perde la vita, la popolazione scappa, nel frattempo si creano grandi centri esterni come i grandi centri commerciali che traggono milioni e milioni di persone ogni anno. C'è una continua trasformazione. Le città non sono mai degli organismi che crescono secondo delle proporzioni stabili. Dai un ultimo consiglio a un bambino o una bambina che se arriva in una nuova città italiana che non ha mai visto, da dove deve partire secondo te? Cosa consigli? Qual è la prima cosa da fare, da guardare? La cosa più bella è sempre andare verso il centro. Okay. Ci sono i monumenti del centro delle città italiane che sono spesso grandi chiese, basiliche, cattedrali. Bene, la cosa incredibile è che succede lo stesso che succede quando ci si avvicina a una grande montagna, che ci si avvicina da lontano, naturalmente il centro, il cuore, con il suo monumento è visibile, diventa un'attrazione, ma a un certo punto, quando si arriva molto vicino, questa montagna scompare, questo monumento scompare, lo si rivede solo quando si è di colpo dentro nella piazza. C'è uno strano passaggio tra la visibilità dello skyline e l'essere dentro nella piazza col monumento in faccia. Tra quei due momenti c'è una discontinuità. Questo è un miracolo, ma è anche uno dei grandi, come dire, delle grandi discontinuità percettive che la città italiana permette. Bellissimo. Grazie davvero a Stefano Boeri per essere stato con noi oggi a Terra in Vista. Buona estate, Stefano. Ciao, grazie. Grazie a voi. Ciao, ciao. Ed adesso invece è il momento delle belle storie di Telmo Piovani. La parola città, cosa ti suscita? E allora, da evoluzionista abbiamo parlato del fatto che le città non evolvono come degli organismi. Quindi allora potremmo andare a vedere come sono nate all'inizio, prima di avere queste poi trasformazioni radicali che ci ha raccontato Stefano Boeri. Allora, sulle origini della città c'è un po' di dibattito, perché molti pensano che siano nate con l'agricoltura, cioè quando l'umanità ha imparato a sviluppare nuovi mestieri, ha sviluppato la capacità di aumentare, di avere un surplus di produzione, e quindi è nato il commercio, l'artigianato, i sacerdoti, gli eserciti, i territori, e quindi la necessità di presidiarli con delle città che avessero delle piazze, quindi dei luoghi di scambio, le piazze dei mercati, le torri, le mura per difenderle. Tutto è cominciato lì. Però forse la città ha avuto anche un ruolo religioso, era il luogo dove si andava tutti insieme per i grandi rituali, no? Grandi santuari dell'antichità. E pensa, questo mi fa impressione ricordarlo, c'è una sorta di ricerca di qual è la città più antica al mondo in assoluto. C'è chi dice Gerico probabilmente, ma comunque tutte le ipotesi sono in Medio Oriente, e di sicuro due fra le più antiche sono Ninive e Aleppo. Due città, Mosul la prima oggi, Aleppo, che in questo momento sono rase al suolo, completamente distrutte, hanno dentro di sé le guerre più tremende. Sono due tra le città più antiche al mondo in assoluto. Questo campionato c'è anche in Italia, non è stato ancora stabilito qual è la città italiana più antica, però in pole position al momento c'è Matera, nel senso che si pensa che, se consideriamo per città un insediamento continuativo con un centro, no, abitato costantemente, pur con tutte le trasformazioni, la prima di tutti potrebbe essere proprio Matera. Bellissimo viaggio quello che stiamo facendo nella nostra Italia. Adesso è il momento dell'arte. Te la spiego io. È il momento dell'arte a Terra in Vista. Ogni settimana in questo viaggio per l'Italia andiamo alla scoperta anche di quelle che sono le correnti artistiche. Con noi Serena Riglietti, illustratrice, docente di disegno e illustrazione presso l'Accademia di Belle Arti di Urbino e art director delle Divertimappe e della app Map2Go. Ciao Serena, ben ritrovata. Ciao. Ciao, ciao. Allora, noi oggi stiamo parlando di città, quindi stiamo scoprendo l'Italia attraverso le sue città. Tu cosa ci proponi? Allora, io vi propongo la street art. Ah, Attenzione, che cos'è di strada? Ci ho pensato perché secondo me tutti i ragazzi che girano le nostre città così si immaginano di colorare dei quartieri, mm-hmm. di renderli più vivaci, insomma. E poi è bella l'idea che l'arte si possa fruire non soltanto nei luoghi, no, deputati, dei musei, ma che faccia parte proprio del nostro quotidiano, delle nostre passeggiate. E la street art è proprio questo, è un'arte di strada. Si realizza negli spazi aperti e spesso gli street artisti dipingono muri, case, ponti o anche oggetti di arredo urbano, le cabine elettriche, gli spartitraffico, e soprattutto veramente fanno un intervento importantissimo su dei quartieri che magari sono un po' lasciati andare, che sono stati rivitalizzati da quest'arte, diventando veramente un luogo dove i turisti vanno per vedere le opere di artisti ormai veramente importantissimi. Noi abbiamo ad esempio Blu in Italia, ma ad esempio anche Pao. Vorrei anche suggerirvi alcuni luoghi, se sì, vai. Qualcuno va a Roma, tipo in via Artor Marancia, ci sono 20 artisti che hanno dipinto con le loro opere coloratissime 11 palazzoni, trasformando veramente un quartiere, oppure i faccioni dipinti da Blu, che a me piacciono tantissimo, hanno ricoperto la facciata di una caserma dell'aeronautica in via del Porto Fluviale, che è sempre a Roma, e le finestre di questo posto sono diventate gli occhioni dei personaggi. Beh sì, è proprio un modo insomma, rivitalizzare questi quartieri con i colori, con le espressioni, con l'anima, no? Che comunque la street art sa prima sa clandestinamente dare. Poi esatto. Diventa arte ufficiale. La cosa che secondo me è interessante è che questi artisti, diversamente ad esempio da alcune tradizioni così dei graffittari, questi artisti fanno veramente dei veri e propri progetti e usano questo lavoro per mandare anche dei messaggi molto importanti, come ad esempio fanno Banksy Blue, messaggi contro la guerra, ad esempio contro l'inquinamento, contro la violenza, contro lo sfruttamento degli animali. Quindi a me piace l'idea di suggerire ai ragazzi un lavoro di gruppo, facendo veramente un progetto. Cioè io suggerisco di fare delle fotografie, di mettersi appunto in gruppo, di pensare a un'idea da sviluppare, di elaborare il loro lavoro sopra le fotografie, di preparare anche una piccola scheda in cui si presenta il progetto, cioè nel senso di fare proprio un'operazione anche professionale, nel senso che poi dovrebbero secondo me anche proporla, non so, alla preside della scuola piuttosto che al sindaco della loro città, se la città non è molto grande, proporsi proprio come artisti che vogliono fare un intervento mirato. E ci ricordi cosa sono le diverti mappe? Sì, le diverti mappe sono delle guide turistiche che si rivolgono alle famiglie con ragazzi, sono guide illustrate che però raccontano anche in maniera molto, non molto approfondita, diciamo, dicono quello che serve per le persone che viaggiano. Le abbiamo realizzate, ne abbiamo pubblicate circa 15-16 per alcune città e regioni italiane. E vengono distribuite in maniera gratuita, quindi magari nei prossimi giorni vi dirò qualche città dove i ragazzi, se per caso si trovano, possono andare nell'ufficio del turismo e chiedere la loro guida in regalo. Grazie davvero a Serena Riglietti, noi ci ritroviamo alla prossima puntata. Adesso ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua con Terra in Vista. Oh, caro Giovanni Capuano, dove passerai quest'estate? Che piani hai? Carlo, io sono qui a Radio 24, sempre convocato quest'estate. Tu? Ci mancherebbe altro, la stessa cosa, sempre convocati ogni giorno dal lunedì al venerdì. Sì, perché racconteremo la lunga preparazione alla nuova stagione del calcio, ma non solo, perché come ogni estate ci sono tantissime cose. Ma le grandi corse ciclistiche che ci stanno appassionando come non mai, e così i mondiali di MotoGP e Formula 1, insomma, c'è un mondo dello sport tutto da raccontare e tutto nel nostro stile. Quindi accompagneremo le vostre vacanze sempre in diretta a partire dalle 14, tutti convocati per tutta l'estate. Quanto dipendiamo dalla tecnologia nel lavoro e nella vita di tutti i giorni? Sono Enrico Pagliarini e ogni settimana 2024 intervisto i protagonisti dell'innovazione tecnologica in Italia e nel mondo. Tutto quello che devi sapere sui nuovi smartphone, le app, nuovi servizi web e molto altro. 2024 è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22, domenica alle 13.30 e in edizione podcast con tutte le interviste in versione integrale. Terra in vista. Terra in vista, si parla ancora di città. Telmo Pivani e Federico Taddia in questo viaggio per spiegare l'Italia a nostro figlio. E lo facciamo ovviamente con le domande dei bambini. Qual è la città più bella del mondo? È un classico. Venezia, che è definita, no, la città più bella del mondo, quindi la prendiamo un po' come simbolo delle città italiane. Ma è anche una delle città più strane e particolari del mondo. Per conoscerla meglio abbiamo invitato Francesca Barbini, che è capo delegazione del FAI di Venezia. Buongiorno Francesca, benvenuta a Terra in Vista. Ciao. Buongiorno. Allora, buongiorno. Che cos'è Venezia? È una città strana, appunto. Qual è la sua stranezza? Venezia è una città molto strana. Si arriva a Venezia e tutte le dimensioni cambiano. Cambia la velocità, cambiano i colori cambiano in continuazione perché è una città che riposa sull'acqua e il cielo determina il colore dell'acqua. E questa città ha una velocità che è la velocità di una laguna molto lenta, dove i rumori sono quelli del lavoro, quelli dell'acqua, quelli delle campane che scandiscono le ore. Vero. Rumori che nelle altre città sono coperti da un rumore caratteristico, che è quello delle automobili. Qui le automobili non ci sono. E questo cambia completamente la vita, soprattutto dei bambini, direi più delle mamme che dei bambini, perché qui si esce di casa e non si guarda a destra e a sinistra se passano le macchine, si esce di casa e si può guardare in alto e leggere nelle pietre, nei nomi delle strade, nelle sculture anche piccole che adornano le case, i palazzi, le calli, che si chiamano così le vie di Venezia, non si chiamano mai vie, hanno i nomi più strani, e si legge la storia di una città. Però bisogna venire a Venezia per capire se Venezia è la città più bella del mondo. Bisogna viverla. Bisogna viverla, bisogna capire che qui a Venezia si gioca in strada, si corre per la strada, una cosa che non si fa in nessun'altra città al mondo. Qui le mamme non tengono i bambini per mano, li guardano giocare magari dalla finestra, li guardano giocare in strada come se fosse il cortile di casa. Però è una città anche fragile, no? Anche in pericolo. È una città molto fragile perché è una città che è stata costruita e conservata con un'azione continua dell'uomo che ha sfruttato tutte le tecniche più moderne nel corso di 1000 anni di storia per ascoltare la natura e controbilanciare i capricci della natura in una laguna che è stata mantenuta con opere colossali come la deviazione di fiumi per conservarne la profondità, che è sempre stata molto modesta. Ma quando c'è l'acqua alta, voi veneziani vi arrabbiate? Allora, i veneziani direi che si incupiscono, non si arrabbiano. Ma i veneziani continuano a vivere con l'acqua alta, si infilano gli stivali e la vita continua, salvo le acque alte eccezionali. Quello che ai foresti, perché quelli che non vivono a Venezia si chiamano così, fa molta impressione, è quest'acqua che invade la nostra vita e che ha delle misure che sono impressionanti, 150 centimetri di acqua, che non sono 150 centimetri, ma sono in genere arrivano alla caviglia o poco sopra alla caviglia, e come arrivano poi se ne vanno, e con qualche difficoltà in più, qualche pulizia diciamo straordinaria, la vita continua. Ma Francesca, quanti ne sono rimasti di veneziani? Doc, veri? Pochissimi, purtroppo pochissimi, e anche per questo la città diventa sempre meno veneziana e sempre più preda di del turismo, di questo grande turismo che, di cui si sente parlare su tutti i giornali, 30 milioni di persone che ogni anno vogliono vedere Venezia, che vengono qui e non la capiscono, perché bisogna sentire il ritmo della città, perdersi nelle calli, leggere i nomi delle strade che sono incantati, il Ponte del Diavolo, il Ponte dei Sospiri, la Calle dei Scoacamini, che erano gli spazzacamini, la Calle del Vento, la Riva del Vin. Queste sono le cose, ma ci vuole tempo, sì. Ci vuole lentezza, quello che questa civiltà non tollera, perché la velocità è un elemento centrale di questa società veloce, globale, dove il mondo diventa piccolissimo e si vuole tutto. Grazie davvero a Francesca Barbini, capo delegazione del FAI di Venezia. Buona estate. Grazie, ciao. Grazie a voi. Conosciamo l'Italia attraverso le città, abbiamo conosciuto, scoperto qualcosa in più di Venezia. Telmo, hai una storia? Beh, ho la storia dell'evoluzione di questa slow city, questa città lenta, come ce l'ha descritta Francesca, perché facciamo un confronto tra la storia di questa fragilità di Venezia e il Mose, queste paratie gigantesche sulle tre bocche della laguna, oppure 30 milioni di turisti, queste grandi navi. Insomma, è chiaramente una contrapposizione tra la velocità, la grandezza, il gigantismo della nostra civiltà e la lentezza di una città che tutto sommato non è antichissima, perché si è formata piano piano tra il VI e il IX secolo attraverso pescatori, mercanti di sale, rifugiati, migranti che scappavano dalle invasioni interne. Ed è stato figlia di un lungo, bellissimo processo di addomesticamento della natura. Fiumi deviati, queste palizzate con questi legni di larice, di rovere che sono messi lì senza ossigeno, sono diventati come delle pietre che tengono su le case. In realtà è fatto tutto di legno, poi le paratie, le dighe. Insomma, è la costruzione di un equilibrio delicatissimo tra l'uomo e la natura. Quindi la domanda, ma Venezia è naturale o artificiale? Non si può rispondere, perché tutte e due le cose insieme. E del rapporto tra uomo e natura ne continuiamo a parlare, lo facciamo con Fringuelli d'Italia. Fringuelli d'Italia. È il momento di Fringuelli d'Italia, il nostro spazio dedicato agli animali e agli ambienti di questa Italia che stiamo raccontando. Come sempre con noi Caterina Spiezio, responsabile settore ricerca e conservazione del Parco Natura Viva di Bussolengo. Ciao Caterina, ben ritrovata. Ciao. Ciao, buongiorno. Allora, oggi siamo in città, stiamo raccontando l'Italia attraverso le sue città. C'è un animale che secondo te è particolarmente rappresentativo di questo ambiente? Ma particolarmente rappresentativo ce ne sono diversi, ma mi piacerebbe parlare un pochino degli animali che non ci aspetteremo di trovare in città, sì. Come ad esempio i rapaci, perché i rapaci tendenzialmente sorvolano i cieli italiani, non si avvicinano all'uomo, cercano il cibo che trovano in giro, e normalmente sono gli animali selvatici che muoiono perché si nutrono solitamente magari da un lato di carcasse e dall'altro invece di animali prede che trovano nelle foreste, piuttosto che, quindi difficilmente li potremo vedere in città, e invece questo fenomeno è sempre più comune. Ma in particolare mi piacerebbe raccontare la storia di Gianna, che è un barbagianni che è stato recuperato dalla Lipo nei pressi di Verona ed era in fin di vita, probabilmente perché cercando cibo deve aver mangiato qualcosa di avvelenato, probabilmente. E la Lipo l'ha affidato poi al Futuro della Biodiversità Locale, che è un centro di recupero nuovissimo nato, scelto anche dalla provincia di Verona per fare appunto questo recupero di rapaci, che collabora con il Parco Natura Viva. E grazie all'esperienza di gestire, diciamo, animali selvatici con attenzione e cura, si è riusciti a recuperarla, direi completamente, tanto che poi abbiamo fatto il rilascio e quindi è tornata ad essere nel suo ambiente naturale, sperando che non si alimenti più di qualcosa di problematico. E la cosa molto carina di Gianna è che è diventata famosa, quindi può essere un esempio importante sulla protezione della, diciamo, di questo gruppo di animali, così come tutte le altre specie in via di estinzione, perché in quei giorni abbiamo ospitato qui Joel Sartore, che è il fotografo che attraverso National Geographic sta portando avanti questo progetto che si chiama Photo Arc, legato alla possibilità di girare per il mondo e fotografare nei giardini zoologici quelle specie che oggi stanno scomparendo in natura. E Gianna è stata fotografata e filmata da Joel Sartore, e nella giornata dedicata alle specie in via di estinzione c'è stato un suo breve filmato proiettato sui grattacieli di Times Square a New York, proprio per sottolineare l'importanza di preservare e di aiutare questi animali che ormai purtroppo stanno scomparendo. E non se ne torna in città? Purtroppo non è detto. Noi adesso c'è un progetto molto bello sul grifone europeo, sul grifone che comunque ha questo carnaio vicino a Udine, dove si cerca di alimentare a Forgaria, si cerca di alimentare quindi portando delle carcasse, e quello che noi speriamo è che magari anche altri rapaci, altri uccelli si possano alimentare e cibare lontano da quelle che sono, diciamo, le città, di cibo che è controllato, curato e preparato appositamente per loro. Il problema è che poi magari non riescono e comunque si spostano, sono animali che coprono diversi chilometri e non trovando del cibo vanno purtroppo dove è più disponibile, e sono le città. La città è una tentazione fortissima per tantissimi animali. Sì, infatti. Grazie davvero Caterina, come sempre. Ricordiamo parconaturaviva.it, il sito del Parco Natura Viva di Bussolengo. Ciao e grazie. Ciao. Grazie a voi, ciao. Noi invece ci fermiamo nel momento del traffico, poi ancora qua con Terra in Vista. Terra in Vista. Terra in Vista, è il momento della terza domanda, quindi del terzo argomento che andremo a toccare. Sentiamo un po' la domanda che ci ha fatto il nostro giovane amico. I paesi sono tutti uguali o tutti diversi? Bella, giusto. Okay, una puntata tra l'altro in cui parliamo di città, introduciamo anche il concetto di paese. Di queste piccole comunità sparse in tutta l'Italia. E qui serviva un esperto, l'esperto lo abbiamo, è lo scrittore e paesologo, quindi ufficiale. Insomma, ufficiale, quindi chi se non lui. Diamo il benvenuto a Franco Arminio. Ciao Franco. Ciao. Ciao, benvenuto. Ciao, benvenuto. Allora, bella questa domanda. I paesi sono tutti uguali o sono tutti diversi? I paesi come le città in Italia sono ancora, per fortuna, piene di differenze, cioè l'Italia a me sembra un luogo ancora felicemente diseguale, e quindi si tratta di avere la pazienza di andare a vedere, guardando, percependo ogni luogo e cercando di coglierne appunto le specificità che ci sono assolutamente ancora. Franco, senti, io noi una volta eravamo insieme in Puglia, io ti ho visto in azione, siamo arrivati in un paese e tu hai cominciato a osservarlo, a studiarlo, a fotografarlo, a parlare con l'edicolante, con la barista, in piazza, sulle panchine. Allora, perché potresti insegnare brevemente ai nostri giovani ascoltatori come si fa ad capire l'anima di un paese, come ci si avvicina, come, visto che siamo nell'epoca dei turisti che arrivano, passano e vanno e non vedono niente? Ah, no? Io questo lo chiamo turismo della clemenza, cioè andare già intanto con l'idea di andare a fare compagnia a un luogo. Ti avvii in un vicolo dove magari sembra non c'è nessuno, poi a un certo punto spunta un'anziana donna che ha il marito al cimitero, i figli chissà dove, e basta una semplice domanda e parte il fiume della storia, cioè perché queste donne erano abituate a parlare e adesso invece trovano un po' lì da sole. Quindi si fa un gran bene a queste persone, perché si porge il proprio orecchio, quindi si ascolta questo bisogno di narrarsi che queste persone hanno. Finiranno mai i paesi, no? Ma io penso di no, ogni tanto siamo funestati da queste ricerche che annunciano la fine dei paesi. Certo, c'è un drammatico calo demografico, però io dico che in linea di massima il tempo che verrà sarà il tempo dei paesi. Non credo affatto all'idea che tutti gli uomini si trasferiranno nelle metropoli e lasceranno, perché la dimensione paese io direi che è una dimensione ottimale per stare al mondo, perché è quella in cui più facilmente si può fare comunità. Si tratta di dare a questi paesi servizi, opportunità, insomma, si tratta di fare delle politiche adatte a questi luoghi. Ciao Franco, grazie, buona estate. Grazie, buon lavoro. Grazie, ciao. A te, ciao. Ciao. Bella la poesia di questi paesi, no? Che hanno comunque un colore particolare, sembra quasi di vederli, anche di sentire i sapori. Cosa ti ispira tutto ciò, Telmo? Quale storia? Ma guarda, mi ispira una storia che è proprio legata alla misura che si diceva ora del paese, la misura del piccolo, no? Della piccola comunità che ci fa sentire protetti, perché nei paesi succede un fenomeno scientifico molto strano e molto particolare che si chiama estinzione casuale e che riguarda i cognomi. Non so se ci hai mai pensato, i cognomi si trasmettono soltanto in linea maschile in Italia, nella nostra cultura. Quindi significa che se una coppia fa soltanto figlie femmine o non ha figli, il cognome si estingue in quella linea lì. Questo significa che se in un paese si parte per esempio con 50 cognomi, siccome possono soltanto estinguersi, se passa un certo lasso di tempo alla fine rimane un solo cognome. Io vengo per esempio dalle vallate del Bergamasco, dove ci sono paesi in cui tutti si chiamano Rota o tutti si chiamano Brambilla. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in quei paesi c'è stata poca immigrazione, cioè non sono arrivati cognomi e non è arrivata diversità dall'esterno e alla fine è rimasto un solo cognome, il che è anche un po' pericoloso ovviamente, che in quel caso tutti ci si accoppia all'interno del paese, quindi ci si impoverisce anche biologicamente. E pensa che la stessa cosa succede anche per altre caratteristiche che si trasmettono soltanto dalla mamma o dal papà, come il nostro DNA dei mitocondri per esempio. E noi abbiamo scoperto che tutta l'umanità è venuta fuori da un piccolo gruppo iniziale di 50.000 persone, un piccolo paesino praticamente, dove è rimasto uno solo DNA mitocondriale che adesso abbiamo tutti, come se noi tutti esseri umani oggi ci fossimo portati dietro questa sorta di cognome genetico iniziale. Quindi tutto sommato noi tutti umani veniamo fuori da un piccolo paesino, un paesino viaggiante, perché poi da quel piccolo paesino siamo diventati 7 miliardi e siamo andati in tutto il mondo. È un bel paesone questo. Grazie Telmo, e adesso è il momento della scienza. Eppur si muove. Grandi scienziati in Italia, scienziati che vi raccontiamo in questo nostro viaggio alla scoperta dell'Italia e poi mettiamo anche un po' in pratica le loro intuizioni e come sempre lo facciamo insieme ad Andrea Vico, il nostro divulgatore scientifico dell'associazione Two Science. Ciao Andrea. Ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Telmo, qual è lo scienziato di oggi? Allora, lo scienziato di oggi con il quale iniziamo a sperimentare non è tanto noto, non è un Galileo, non è un Leonardo da Vinci, ma anche lui ha dato un contributo alla storia del nostro paese. Si chiamava Vitaliano Donati, settecentesco, aveva studiato a Padova, dove c'è l'orto botanico universitario più antico del mondo, che oggi è diventato patrimonio dell'UNESCO, e lui era appunto un botanico, ma anche un medico e un archeologo, e faceva parte di quella gloriosa storia di quei naturalisti che andavano in giro per l'Italia, per i mari e per le terre di tutto il mondo a raccogliere reperti e che hanno poi fatto la ricchezza dei grandi musei, dei grandi orti botanici italiani spediti in giro per il mondo da papi e re, in questo caso donati dai re Savoia, per i quali fece tantissimo lavoro, e poi fondò anche l'orto botanico di Torino. Poi ci prese gusto, cominciò a fare viaggi anche più esotici in Egitto, in Siria, in Arabia, e morì proprio nel 1762 su una nave turca mentre stava andando nelle Indie, quindi una vita anche avventurosa. Andrea, ci prendiamo gusto anche noi, in che modo? Proviamo a fare un piccolo erbario che magari poi a settembre si può portare a scuola e vedere insieme con i compagni e con gli insegnanti di scienze. Serve essenzialmente molta curiosità, un paio di forbici un po' grosse e una zappetta e la voglia di isolare in un prato, in un bosco, quelle piante, quelle erbe, quei fiori un po' strani, un po' curiosi. Bisogna fare questa operazione nelle ore centrali della giornata e non ovviamente in un giorno di pioggia, perché la pianta deve essere diciamo estratta dal terreno con la zappettina. Si tirano fuori anche un po' le radici, perché le radici fanno parte della pianta in tutto il suo splendore, quindi negli erbari ci deve essere anche l'apparato radicale. Dopodiché si prendono dei fogli di giornale, anche questi chiaramente belli asciutti, si stendono e si adagia la pianta cercando di orientare nello stesso verso le foglie. Okay. Se una radice è un po' grossa la si seziona, cerca di appiattirla un po', ovviamente si toglie un po' di terriccio che può essere rimasto, e anche il fiore, che può essere chiaramente corposo, pian piano lo si, con le dita lentamente, lo si appiattisce. Dopodiché altro foglio di giornale sopra e un bel po' di libri. Ogni 24 ore si devono cambiare i fogli di giornali. Sì. E poi a seconda di quanto questa pianta è ricca o meno di vita, di linfa, eccetera, ci possono volere 3-4 giorni o una settimana per averla completamente essiccata. A questo punto, con degli spilli e usando come base un cartoncino bianco o di qualche altro colore opportuno rispetto ai colori della pianta, la si fissa. Ovviamente bisogna ricordarsi di prendere nota del posto, del giorno e della stagione quando abbiamo preso la pianta, perché chiaramente la vita fa cambiare l'aspetto esteriore delle piante nell'arco di una stagione o di un anno, e scrivere chiaramente di fianco tutto quello che è la sua descrizione botanica. Grazie Andrea, come sempre, per i tuoi preziosi spunti. Alla prossima. Ciao. A presto ragazzi, ciao. Ciao ciao. Questa è Terra in Vista, l'Italia spiegata a mio figlio. Un grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, un grazie ad Andrea Spenuso in redazione, a tutti i tecnici, Andrea Roccabella, Peter Bescapè e Paolino Corleoni, e ovviamente grazie al mio compagno di viaggio. Quella di oggi era una puntata dedicata alla città. Telmo, cosa abbiamo imparato? Beh, abbiamo imparato che in Italia non c'è un paese uguale a un altro e che Venezia è la città più lenta del mondo. Fantastico, questa è Terra in Vista. Alla prossima puntata.